Avete il telefonatore della IES? Quando era a Canega? Sì, più o meno, dai. E io sono in Capannulli lì vicino, guarda, guarda, io sono con... Tu entri di fronte a Colombano, c'è un viottolo, e c'è il Capannulli dove lavoro io. Che napoletano. Come Antone? Lì di fronte dove sta dicendo lui, c'è il Capannulli di un napoletano, che vende roba napoletana. C'è pure, c'è una ditta che c'è scritto che vende pavimenti, bagni, roba così, capito? Ci sono quei capannoni, so. Una fila di capannoni. Vabbè, non c'è problema, Marco. Ho sentito che, come ha detto, pigliarla, qualcuno mi ha risposto sotto. Ma perché non passo? A me è provato i miei passi di cristallo. Se ci ho 3 watt, 3 watt di apparato, il filtro, quindi ne usciranno 2 di watt. Poi dopo 50 metri di cavo ne uscirà uno, all'antenna ne arriva uno di watt. Vabbè, devi contare che c'è il palo che è ruginoso, Devo adesso cambiare il palo, lo cambiare, togliere, il problema è togliere quel palo dall'acqua, che mi tocca comprare una fune in nylon, entrarci il cavo all'interno e legarlo, e farlo uscire all'esterno, legarlo e faccio scendere dal coso, hai capito? Fino al terrazzo di mia sorella. Per poi passare l'altro tubo da 3 metri nuovo, è capito a posto di quello, sali ce l'ho sopra, e non è che sia... è un pochettino incasinato, ma comunque meglio di niente già. Anche perché il palo è ruginoso, l'ho già visto, quindi la massa non è che le sta facendo molto la mantova. Quando mi metto a pompare ho visto che salgo stazionario, quindi... c'ho problemi di massa. Ehi, dai, riprendete un attimino, sto cercando un'antenna. Antonio, non ho fatto un'antenna ancora meglio della Grazioli normale, ancora meglio delle 6 ottavi. È una cosa folle, è una 7 ottavi d'onda, cioè è una 5 ottavi più con messa in fase, non so se si dice così, messa in fase, un altro pezzo da un quarto d'onda. E quindi totale 7 ottavi d'onda, roba i 10 metri di antenna, è una cosa folle, c'è lo stilo radiante, 10 metri stilo radiante, sono 27. E cosa ho detto poco fa io? Te l'ho detto, c'è un'antenna che è lunga 10 metri, ti ho detto. C'è la bobina al centro, vuole anche ancorata addirittura con l'antenna, perché è lunga 10 metri, ed è quella della Grazioli. C'è su Facebook, la stanno in pratica pubblicizzando. Quella mi voglio prendere, hai capito? C'è da dire che sono una cosa allucinante, che sono lunghi, mi sembra più di 2,70 m, figurati. Sono lunghi quasi 7 metri. Ricordati tu, se guardi alla base c'è parte un pezzettino di rame per cortocircuitarla, c'è l'isolamento in pratica, cosa cazzo è, plastica, betonese, non lo so, bianca, parte da lì, l'ho vista ieri, e poi al centro c'è questa bobina sopra, però vorrei in pratica, siccome è talmente lunga 10 metri, ci vuole una valla, c'è anche scritto, per ancorarla, se no si è fottuto, te ne scende in terra. Ehi, di nuovo la turbina, Antone. Adesso rilanciamo Cristian. Sì, una cosa allucinante, comunque la bobina non è al centro, è un po' più su, è tra il segmento 5 ottavi e quello da, e poi da un quarto d'onda, che sarebbe 2 ottavi, sarebbe un quarto, 2 ottavi, uguali. No? E i radiali penso siano da 2,75. Ma ok, credo forse la Palla Grazioli stessa, mi devo controllare. È una cosa allucinante, cioè, è paurosa, paurosa, ma anche da ancorarmi. Se ti vola quello, ci si spezza, mi. Lo so, è fina, ho visto che è fina. Non lo so. Bisogna vedere quanto costa come antenna. Però ne ho visto un'altra a posto di quella, di antenna, che cioè i viali che sono lunghi, mi sembra che lunga 7 metri, una cosa del genere. Dai, rilancia a coso, però che in un parcheggio, mentre io cerco questa benedetta antenna. Comunque mi sembra che non si devo la sto facendo io, l'altra. Avanti, Cristian. Cristian è sparito. Forse è sceso dalla macchina, dai. Caspita, ecco la tua antenna, vediamo se è questa. E accetta i cookies, per carità. Ah, hanno fatto anche la mezz'onda, La Grazioli mezz'onda. Quindi, per chi non vuole un'antenna impegnativa con quei radialoni, no? Vabbè, ma per quella lunga 10 metri, cazzo, ma sei matto che è andato qua. Se metto una cosa del genere nel 4, un momento me ne scende in terra, cazzo. Oh, vabbè, stecco solo di così io. Tu, se riesco a trovare la moto della Super Lem, mi prendo quella. Costa 160 euro, ma me lo sono sicuro. E se la tronca in culo, a un certo punto. Però finora la moto va stando bene. Se riesco a trovare la Super Lem, me la prendo di riserva. Me la metto in garage, quando sarà il momento opportuno si penserà, se no la biglia in culo. Ehi Antone, aspetta, non la trovo però, non trovo le foto, porca miseria, ho scaricato materiale, PDF, non trovo più niente. Vabbè, comunque sì, è veramente impressionante, c'è più di una 6 ottave addirittura. Ma quello che mi dispera è cos'è, con la bobina sopra, perché se non l'ancori, sai come si spezza in due l'antenna. Oppure gli puoi fare un rinforzo all'interno, tipo come che facevo qualcuno con le canne da pesca, tipo corda. Vabbè, bisogna vedere come. Vabbè, non trovo più le immagini, non la trovo più le immagini, né le immagini né i PDF, forse me la sono sognata pure questa antenna. No, non te la sei sognata, ma l'ho vista anch'io. Il problema è ancorarla dove? Sotto la bobina, se gli fai l'ancoraggio si spezza il pezzo di sopra. Se invece l'ancori sopra, si piega il pezzo di sopra, il discorso è quello. E che tu lo sai, è successo con la Mantova a Porto Torres, che faceva gli ancoraggi con quelle corde nylon fini, e dopo in pratica che facevi l'ancoraggio si piegava da lì in poi, hai capito? Col vento, anche perché il vento ti tira i tiranti, hai capito, dello stilo, e quindi secondo come ti ritira, se si aggancia da qualche parte sei fregato, il discorso è quello. È veramente un casino. Se fai l'ancoraggio corto, cioè in pratica stretto, penso che non si muova, ma se li fai quello largo, come i tiranti normali, tende a muoversi, come si muove, sì. C'è il rischio di spaccarsi l'antenna, hai capito? Perché il palo, lo sai anche tu, quando fa vento il palo deve oscillare, prima cosa. Se uscire il palo uscire anche l'antenna, e deve uscire anche lo stilo, e se no è come un ponte, capito? Ti si crepa in due, ti si crepa all'oscillazione, come il terremoto. Quindi bisogna saperla tirantare, il discorso è quello lì, ci voglio. Secondo me non ne vale manco la pena comprarla. Rischi il cazzo che ti si spacchi da un momento all'altro. E si conferma. Allora è rientrato Cristian. Non la trovo, Antonio, avevo scaricato anche il PDF qua nella bolgia infernale dei file, non riesco a trovarlo. Comunque è impressionante veramente. Ma così si dice quando tu unisci due elementi radianti messi in fase, così è 5 ottavi e un quarto d'onda. Beh ragazzi, io chiudo. Ehi, aspetta, che sono diventato al lavoro, dai, ci sentiamo stasera. Ehi, ok Cristian, ci sentiamo, va, starei bene alle tosse, vero? Buon pranzo, buon tutto. Marco, l'ho visto ieri, l'ho vista con l'antenna, la verità, su Facebook, lo stavo pubblicizzando, l'ho vista messa orizzontale, poi l'ho guardata, secondo me non va bene a installarla, hai capito, dove sono io, perché a me al primo vento 120 km orari me la trovo in terra, fa la fine della Game Master, come un sacco di gente se l'ha vantata e poi è finita male, quindi secondo me è meglio lasciarla perdere, meglio prendere una... Se si trovano le Super Lem spendi 160 euro e sei più sicuro e ti dura un bel di anni, come quella che aveva cosa, già lo sai anche tu, quindi a un certo punto preferisco spendere 160 euro, mi piglio la Super Lem e vaffanculo, che è molto meglio, almeno mi dura 10-15 anni, non devo andare sopra il tetto a rompermi le balle ogni volta a metterci tirate, ma che cazzo se ne fotte. Eia, ciao Cristian, buon lavoro, buon tutto. E Antonè, che te devo dire? Beh, alla fine tanto vale una 5 ottavi, cioè se la tua dà problemi metti una 5 ottavi, vai sul sicuro, robusta, magari non metterli queste sottili, però per dire Antonè, questa antenna che avevamo piazzato, io non gli davo più di un anno, due, tre anni, l'ho detto, se dura tre anni è grasso che cola, e a marzo, aprile, maggio, dai, fa 8 anni, cioè una cosa incredibile, io credo che non sarebbe durata più di pochi anni, invece una continua, la via lì su tutti. E l'isolamento è molto importante, anche quell'isolamento che è stato fatto, tutto quello che era isolabile, quello stagnato, con l'agglomerante l'abbiamo fatto. Ma te l'ho detto che l'antenna durava un sacco di anni, se tu la sai isolare bene, l'antenna dura un bel di anni. Ma tanti anni, non c'è bisogno di fargli un tubo, hai capito? Cioè, invece quando la piazzi così com'è, senza medicinato vulcanizzante, eccetera, eccetera, l'acqua entra all'interno, poi da lì scende la bobina e ti macisce quel pezzo stagnato che c'è, che va a agganciare dalla bobina allo stiro, è logico che poi non conduce più, è già successo un paio di volte a un paio di persone e tu lo sai, quindi il discorso è quello lì. Io quando l'ho avuta, la prima cosa che ho fatto l'ho smontata, io ho messo un altro vulcanizzante all'interno, un altro isolante, poi ci ho messo quella isolante che c'ha il suo originale, poi di nuovo sopra quella, mi è durato un sacco di anni quell'antenna lì, mi è durata. L'unica cosa l'ho fusa con lineare, il discorso è quello, ci ho messo più di 500 watt e mi si è ridotta a un coso, a un collaboratore, quindi l'ho dovuto, quel periodo io usavo 600, che te lo ricordi, adesso ormai se metto la via 27L chi se ne frega, va bene così, con te la diaria di Grand Prix e pompa quanto la Mantova, già lo sai anche tu. Buonasera. La compagnia di Marco Antonello, però Antonello, che pompi quanto la Mantova, qua ho i miei dubbi, perché questa è un'antenna leggermente più corta della Mantova, l'ho fatto appena più di bobina, un po' meno di stilo, che pompi più della Mantova non ci credo, bisognerebbe provarne una, poi toglierla la sera il giorno stesso, montare la Mantova sullo stesso palo, stesso cavo, stesso apparecchio, chiedere un controllo e così puoi sapere se rende più o meno della Mantova. Avanti che è entrato, buonasera. Buonasera Marco e Antonello, Carlo da Questa. Sempre con le antenne siete. Sempre cercando, vabbè, io questo ho messo quando si rompe, pazienza. Però è bello vedere i nuovi prodotti. E questa di cui stavamo parlando, non so se l'hai sentita, tipo 7 ottavi d'onda, una bestia di quasi 10 metri di stilo, certo sarebbe negativo. Poi Antonio, io non so se si può tirantare sia il palo e sia lo stilo dell'antenna, se si può tirantare tutto, con un po' di criterio naturalmente. Allora io un'antenna che è lunga 8 metri e mezzo senza radiali, praticamente la J-Ball della Smart è chilometra da solo, non ha tirante, non ha bobina, prendeteci il tirante, è a forma in giri, per quello che si chiama J-Ball, ha solo due, diciamo, spilli, uno lungo 8,50 e l'altro è 2,70, regolabile ovviamente per la temperatura. Adesso si è comportata bene anche con il vento che ha fatto ultimamente, nonostante sia bella in alto, riflette solamente la parte superiore leggermente, ma non più di tanto, è diciamo orientata verso nord, posizionata bene su un palo telescopico dove quello più grosso alla base è di 3 mm di spessore e 40 kg di diametro. Diciamo dal tetto è messa a 2,70 m, 2,70 d'altitudine, perché su una casettina sul tetto, poi dal tetto è 1,5 m, dove andò io una zona molto alta e aperta, però il vento è ancora fruttifero per adesso, è stata a gennaio, adesso vediamo quanto dura. E in più quei radiali di Gameplay 4 ne ha, c'ha lo stilo centrale e ho aperto io Gameplay intera, l'avevo recuperata, c'era lo stilo centrale e i quattro radiali, figurati, quindi sono 5 davanti tutto. Metà alluminio, metà vetrodesina, uscivano veramente bene. Qua è passato, ovviamente è passato Carlo, Antonio avete parlato involontariamente in due. Sì Carlo, quella è una bellissima antenna, quella è la stessa che ha Sparviero, è una bella antenna quella lì, non ha radiali ed è una gran cosa, perché certe volte tra cornacchie e pigioni e li piegano, li rompono e quindi una seccatura in meno e non avere i radiali, è una gran cosa. Riprendi Antonio, di quello che hai detto che è passato Carlo. Cosa vuoi dire Carlo? Mi sono anche dimenticato, sono mio fratello, a rompermi i coglioni. Bella birra, no? Io mi suicido, aspetta un attimo. Addirittura. E vuole portare la passeggio, capito? In carrozzina, cazzo, dopo che si è pigliato l'antibiotico, sei matto. Cioè, è lui, cazzo. Ma io ci fuori anche a bambina, aspetta un attimo. Bisogna avere pazienza. E già lo credo. Stavo dicendo Marco, poi ho visto che c'era anche Antonello e allora ho mollato la portante. Niente, e adesso io l'ho messa a gennaio e così vedo un po' all'anno come in che situazione si trova l'antenna, però è diciamo bella robusta, tutta in alluminio, tutta in alluminio. Io ovviamente prima di portarla su dove ci sono le giunzioni, le fascette, lì ho usato quel nastro autoagglomerante, giusto perché, capito, così non ci entra acqua e anche tutta quella roba che si appiccica, quella sorta di calcare bianco, diciamo non va a intaccare quelle cose, capito, nel caso la dovessi poi smontare eccetera, mi auguro di trovarla pulita lì dove ho sigillato così e dovrebbe anche durare di più. Sì, sì, una volta che isoli bene le giunzioni, questo è un lavoro che ho fatto su questa antenna che poi è economica, però vedi, questa è un'antenna economica come resa, ma non troppo economica quando la compri a Sassari, perché ti costa 90 euro, non è poco, visto che la Sirio, vabbè, online la paghi 12,60, però la spedizione poi sono già quei 15 euro almeno, qualcuno ti chiede 20 euro. e ti avvicini al prezzo che con cui la compri a Sassari. Però ripeto, ho stagnato lo stube di taratura, no? Dove c'è la vitina esagonale, poi lo stilettino sottile per fare la taratura. Tutte le giunzioni tra gli stili, poi ho anche isolato bene il pezzo che va dall'alluminio a quel tubettino, c'è un tubettino in plastica trasparente che copre la bobina, anche lì in alto l'ho stagnato in modo che non entrasse acqua. Invece a Natalino gli entra acqua, credo proprio da lì, perché sì, dentro c'è un piccolo ring, ma una volta che parte quello, per il caldo, per il freddo, per il ghiaccio, l'acqua entra da lì. E poi ho stagnato anche il PL, cioè ho avvitato il PL sotto e gli ho fatto un bel malloppo di vulcanizzante, in modo che da non stare sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi, e qua poi un macello, serve un macello. A me non piace fare così la spola tra casa e terrazzo, allora ho detto deve essere installata che duri un po' il più possibile, e così non ci pensiamo più. Vai Carlo. Beh sì, quella è la cosa migliore, cioè una volta che la piazzi non ci sali più. Io spero di fare così, ero un po' scettico perché era un po' lunga e pensavo di avere più problemi, però una volta che mi sono messo a portarla sul tetto per piazzarla, premetto che me l'avevano già data, già quasi costruita per metà almeno, se non di più, l'ho presa così perché me l'ha data Claudio, e quindi era già anche tarata, non ho fatto niente, l'ho solo piazzata, ho fatto quel lavoro lì di vulcanizzare un po' tutte le giunture e poi l'ho messa sul palo, l'ho tirata su, il palo l'ho abbassato, è semplice, anche leggera nonostante l'altezza, e da solo sono riuscito a metterla su. Avevo comprato il cavo nuovo, ho preso quello della Messi e Paoloni, visto che ho detto mi rimetto con la CB, ho detto mi faccio tutto nuovo, mi faccio un bel impianto, Messi e Paoloni, praticamente è A++ 50 ohm, il filo C17 come sigla plus 10.3, è ottimo, è un po' rigido, però è un ottimo cavo con poca dispersione eccetera. Allora, i Messi e Paoloni le conosco poco, però come spessore, come siamo? 6 mm 7 oppure 10, tipo l'RG213? Esatto, è un RG213 questo. Sì, sì, ottimo. Ottimo. Io ugualmente, siccome ho 50 metri di calatta, misurati, 50 metri di calatta, perché fa un sacco di giri il mio cavo. Io sono al piano rialzato e poi ci sono altri tre piani, più il terrazzo, più dal bordo verso il centro del terrazzo un'altra lunghezza, poi il palo che è comunque breve, vabbè, sicuramente ho preso la RG 213 in modo da non avere troppa perdita, ecco, da non avere perdita. Qualcuno mi ha detto, vabbè, se avessi saputo forse avrei preso la Camille, per quanto la Camille sia veramente ma veramente rigido, cioè centrale rigido mi pare di rame, comincia a essere già un po' più problematico per me. Allora il 213 ce n'è davanti, anche robusto meccanicamente, capito? Vediamo se Antonello è rientrato. Carlo, ti volevo chiedere, ma tu sei nuovo, sei radiatore, sei WL, cioè sei entrato nuovo, ex nuovo in frequenza? Nuovo non direi, perché da ragazzo, però non ero in queste zone, altre zone, avevo una bella stazione, avevo un sacco di altre attrezzature, avevo un terrazzo grande dove avevo dipolo, col rotore, direttivo, quindi giravo e rigiravo, ho fatto un sacco di DX in mezza Europa e oltre anche. Poi avevo mollato tutto e ormai dal 95 sono stabilmente a Sassari. E così da un annetto a questa parte mi è un po' ritornato il ghiribizzo della radio. Adesso mi metto una radio CB, avevo qualche alimentatore e per cui ho fatto tutto l'impiantino qua, niente di particolare, però già sono a conoscenza di un bel po' di informazioni, dai Marco. Cappa. Sì, io ero entrato nell'84 la prima volta, avevo 13 anni, poi 84-94, poi avevo smesso perché si era sciolta la cerchia di coetanei, poi ho provato nel 2010 a riprendere la baracchina a mano, ho sentito che qualcuno ha fatto capolino e così, però c'è di nuovo un calo di interesse, quindi io non entro tutti i giorni, io entro ogni tanto a salutare, oppure se c'è un discorso un po' così mi trattengo un pochino e così, dai, insomma. Va bene, Antonello, sei rientrato? Antonello deve essere impegnato con la telefonata ancora. Antonello già c'era una vita con la radio, io lo sentivo dall'altro QTH tanti anni fa, lui, Giulio, tutti vecchi, insomma, qualcuno è rimasto comunque. Adesso pian pianino si sta ripopolando, un po' sono i vecchi, diciamo, di una volta che stanno riprendendo le cose in mano, capito? Però forse c'è anche qualcuno più giovane. Sì, io sono stato assente vari mesi e addirittura non facevo nemmeno ascolto perché ero un po' giù di tono, giù di tutto, e non ascoltavo né in 27 né in VE1 né, mandava, né in HF, nulla. Adesso un pochino aggiornate. Va bene, aspetta, ho perso il filo. Volevo dire, vado a prendere l'acqua perché ho bisogno di bere, necessità di bere. Arrivo subito. Non ti preoccupare, vai pure. Tanto io sono qua in ascolto. Se entra Antonello poi già si farà sentire. Ecco qua, mi sono quasi idratato. Quindi se tu ricordi tanti anni fa, la propagazione era a tali livelli, in certi anni, in certi periodi, poi c'era un'utenza incredibile prima dell'avvento dei cellulari e di internet, cellulari, computer, è una cosa impressionante. Cioè io che avevo una gran plane, ma ero molto molto basso, era come avere un'antenna veicolare quasi. Arrivava la propagazione fissa a Santiago 9, conta, con un'antenna bassissima come la mia, tant'è che non riuscivamo a parlare in città, era una cosa impressionante. Adesso è molto molto cambiata la situazione, molti meno utenti, di conseguenza meno ciabotto, ecco. Sì, no, adesso a volte riesci a farti quattro chiacchiere tranquillamente, poi vabbè, ogni tanto capita è lo scocciatore di turno, ma molto molto meno rispetto al passato. Prima la gente entrava, cantava, metteva musica, disturbatori, e prima era una battaglia, era così, però c'era tanta gente che ce l'aveva in macchina, c'era gente che insomma ce l'aveva in casa, come ero io, ce l'avevo sia a casa che in macchina in passato. Adesso è uguale, ne ho messo uno piccolino in macchina e è quello di casa, solo che in macchina devo un po' spingerlo perché non è che esci bene, capito? Sì, quello, allora, in macchina un 747 aiuta parecchio, basta pilotarlo con pochi watt, 3, massimo 4, e ti dà un incremento di ben 2 Santiaghi, aiuta molto molto molto in macchina. Poi se il microfono è abbastanza performante, meglio ancora. Ti volevo dire, quell'apparecchio che hai tu, che era molto simile al mio, è praticamente una rede, un clone del Magnum 257 o simili dell'epoca, e aveva la possibilità dentro il microfono di essere, aveva un trimmer per aumentare la modulazione. Io l'avevo fatto ed era diventato più performante in modulazione. E poi vabbè, quell'apparecchio, c'è stata tutta una storiaccia dietro, l'assistenza mi è stata bruciata, quindi lasciamo perdere. Alla fine l'ho odiato quell'apparecchio, l'avevo dato a un radioattore che con un tocco magico l'ha riportato in vita. sì, è praticamente è quasi come quello lì, è solo che diciamo con questo, con diciamo alcuni piccoli accorgimenti riesci a trasformarlo senza però diciamo fare ponticelli come era di solito. Ormai l'elettronica è cambiata e anche queste radio sono così. Sì, ho visto che su questo microfonino qua c'è un trimmer di colore giallo con una vite a croce e ho provato un po' a girarlo da una parte e fa mezzo giro da una parte e mezzo giro dall'altra. Adesso non so quale delle due parti lo porta su un pochettino e migliora il microfono e ci dovrò un po' smanettare ancora qualche volta. Sì, l'hai descritto perfettamente, è proprio uguale al mio, me lo ricordo ancora, un giallino arancio. E sì, ti dirò che rispetto a come esce di fabbrica migliorava la modulazione, che altrimenti era come un po' compressina, migliorava un po', niente di eccezionale però. Poi vabbè, dentro si possono fare varie cose, però alla fine se uno lo vuol tenere omologato, tanto alla fine bene o male siamo sui canali normali. C'era per i VX, la 3.5 è già una cosa interessante, sempre con cautela, ma qualche bel VX si può fare. Vediamo se è rientrato Antonello, vediamo se è rientrato Franco California o se l'ascolto. Chissà che non c'è nessuno, Marco. Tu in che zona sei, Marco? Via Nizza. Giusto, è giusto, me l'avevi detto. Ho capito, quindi in linea d'aria qua siamo anche abbastanza vicini. Sì, io un giorno stavo ascoltando, avevi detto grosso modo zona Pooling, zona astronauti, via delle astronauti, dai, quella zona lì, e quindi sì, abbastanza vicino. Io sono molto più infossato di te, notato, tu c'hai una bellissima posizione lì, c'è quella zona lì. Sì, precisamente io abito in via Dau, ce l'hai presente dove c'è quel parco delle suore che va a finire in via degli astronauti, praticamente dove c'è la pizzeria, l'autoscuola. Se tu guardi dalla via degli astronauti, più o meno da quell'altezza lì, dall'altra parte della strada c'è un muraglione e là dentro c'è un parco. La mia casa è oltre quel parco, praticamente io confino con quel parco, non ho altri palazzi davanti, dietro, quindi esco abbastanza bene, pulito, perché non ci sono palazzi più alti di quello dove sono io, capito? Sì, è un bijou, lì è un bijou. Io purtroppo ho via Gorizia, via Planicetta, che mi coprono tutta la parte. Praticamente l'antenna vede solo la zona industriale Polo Torres, però tutto ciò che è a destra la zona industriale, i palazzi me la sovrastano. Sono invece libero tutto dalla zona industriale di Polo Torres verso sinistra, quindi Stentino, Alghero, anche il sud ce l'ho abbastanza libero. Fino a sud-est più o meno. Sì, ho capito. Io qua, guardando sul tetto, un giorno mi sono portato i binocoli, riesco a vedere tranquillamente Osilo, tutta quella zona lì, Santa Vittoria, tutti gli altri quartieri alti di Osilo, vedo tutta quella zona lì, sino ai monti che portano fino dall'altra parte, dovrebbe esserci Nulvi, quella zona lì. Niente, poi sì, tutta la zona che hai detto tu prima, hai citato prima Porto Torres e tutta la zona dell'Asinara, si vede il mare anche da qua su e anche penso da casa tua, però è tutto aperto, capito? Quindi io non ho nessun ostacolo, vedo da nord a sud, da est a ovest, ho tutto aperto. Sì, infatti quando lo richiede, tipo primavera, quando arriva la propagazione è un bijou, quest'anno era un anno eccezionale, discreta la propagazione, parlo in 27, naturalmente io ho perso un po' anche il coso di fare di ex, un po' alla fine, sempre fine a se stesso, dai, controllo, come arrivo, come mi arriva, salutoni, e vabbè dai, poi quelle selle non le mandano. Capito. capito, sì, anch'io, anche qualche giorno fa si è aperta una piccola finestra, adesso non ricordo, forse era di pomeriggio intorno a quest'ora, e ho collegato il Belgio, la Germania, solo con i watt della radio, e io sto uscendo con 4 watt, e mi sentivano bene, ed erano qua in AM, e poi mi hanno fatto spostare in SSB, e qualche watt in più c'era, capito, e quindi sono riuscito a parlare con questo che parlava dalla Germania, parlava un poco inglese, anche io lo parlo poco, però già mi faccio capire, dai, è giusto per i controlli, le solite cose, un saluto, buon weekend, eccetera, e solo ci siamo salutati per radio, comunque è sempre una soddisfazione, dai, riuscire a collegarti un po' lontano, poi ne ho fatto diversi da qua, da casa, anche quando avevo l'altra antenna. Sì, io preferisco naturalmente parlare con l'Italia, almeno riesco a scambiare due parole in più, che erano il solito segnale, i soliti controlli, al limite che apparato ha, che stazione ha, insomma. Con l'Italia c'è più gusto. E spesso qua arriva sparato il Sud Italia arriva sparato. E le volte il Nord Italia, meno la zona di Roma, non so perché, arriva il Veneto, arriva tipo Svizzera, tutta quella zona lì comunque, anche ovviamente molto d'Italia. Sud Italia è una bomba, poi Sud Italia credo che abbiano un po' la passione per vedere cose molto spinte, lineari. Sì, d'estate una volta eravamo sul 10, ci chiamavano perché sentivano che parlavamo e abbiamo collegato la Puglia tranquillamente, tutte le zone di Matera, Alberobello, quelle zone là, ma si sentiva con un segnale fortissimo Santiago 8-9 e altrettanto noi arrivavamo così con pochi watt, dipende sempre dalla propagazione, capito? Ci sono quelle giornate favolose col Piemonte, insomma, di collegamenti ne ho fatto diversi anche in Italia. Ho collegato il paesino di Punta Raisi, la Sicilia, capito? Adesso certo questo è un periodo non troppo ottimo per i Dix, capito? Però quando ci avviciniamo alla primavera, verso da maggio in poi, penso che migliorerà la situazione. Sì, infatti, anche noi che siamo in questa bolla di calore, adesso non dico bolla, ma visto le previsioni, caspita, oggi c'era, ripeto, anche caldo in moto, pure troppo per i miei gusti, io lo soffro parecchio e non me l'aspettavo. La previsione ha fatto vedere che siamo in una zona di aria calda, favorisce anche quello, anche quello favorisce. Sì, senza dubbio. Stamattina qualcosina si sentiva, però a dire la verità avevo altro da fare, quindi sono entrato un attimo, c'era Natalino, che ho fatto 4 chiacchiere con lui, Franco da Sorso che stava provando qualche microfono, giusto una mezz'oretta sono entrato, poi avevo da fare e quindi ero in ascolto, ma ogni tanto sentivo qualcuno dalla Spagna parlare, capito? Molte volte lo metto in scansione sui canali CB e si sente più di una volta qualche straniero parlare. Sì, molti in FM anche, anzi in Europa, a parte gli spagnoli un po' che sono come noi, però Nord Europa, anche Est Europa, molto usano l'FM. Anche quello rende discretamente in propagazione. La laterale è naturalmente quella preferita, però anche in FM quando c'è propagazione arrivano certe sperle di segnali, caspita. Vabbè, adesso vediamo se è rientrato Antonello, io stacco, devo cercare il vulcanizzante che devo riparare questa guaina microfonica. Antonello, sei rientrato? No, non deve essere rientrato Antonello, se no avrebbe chiamato. Spesso fa così, Antonello scompare, sparisce, dice un attimino, poi sparisce tutta la sera, vabbè. No, non c'è problema, già lo sentirò in altre occasioni. Bene Carlo, mi ha fatto piacere fare due chiacchiere, adesso mi dedico altro. E poi ci si sente quando... piace fare più ascolto, adesso che c'è un po' più attività amatoriale anche in VU e in U, è un piacere ascoltare. Ci sono periodi magari che erano un po' più morti, qualche CB è diventato un radioamatore, tipo Roberto, che lui era abbastanza preparato, insomma sì, ha molta passione per questa roba elettronica, quindi sono contento che sia diventato un radioamatore. Adesso ci avrà tante cose da sperimentare, molte più di noi, perché noi abbiamo sempre i limiti legali da rispettare. I radioamatori possono fare grandi cose volendo. Sì, l'ho saputo di Roberto, infatti prima entrava di più e giustamente adesso avrà tante novità, tante cose da provare con piena libertà, capito? E si dovrà sistemare antenne, immagino, e chissà quante altre cose. Sì, certo, è un'ottima cosa quello, riuscire a passare a livello successivo e superiore, quello del radioamatore. Io non mi ci sono mai messo, a dir la verità. Un paio di volte avevo visto il programma, c'è molta elettronica, legge di Ohm, tutte quelle cose lì, cosa sono i condensatori, eccetera. Adesso dice che si fa tutto online, però diciamo non mi interessa più di tanto, perché comunque comporta poi una maggiore spesa e sborso di tante altre cose. Invece qua diciamo che ti accontenti di poco, magari qualche piccolo esperimento ogni tanto, e per me va bene così come passatempo, è ottimo. Sì, c'era un periodo che anch'io ci avevo pensato, ma questo molto pre-Covid, molti anni fa, vari anni fa, c'era anche qualche apparecchietto sotto mano, però poi c'è stato questo calo, la mia memoria poi non è più quella di una volta, quindi molte cose che non so le dovrei memorizzare, non ce l'avrei fatta, allora ho lasciato stare. E poi in passato si facevano i corsi, magari c'erano le varie sezioni ARI, non so se a Sassari ci sia o ci sia stata, e ogni tanto istituivano qualche corso, quindi col corso sarebbe stato più facile, perché sicuramente hai l'insegnante, persona preparata che fa il corso e ti spiega passo passo, quindi prendi gli appunti, capisci, eccetera, e forse in quel modo saresti in grado anche di superare l'esame. Invece studiarti tutto da solo e capire certe cose, diciamo, è più difficile, è molto più impegnativo, quindi quello scoraggia tante persone. Purtroppo non c'è questa possibilità di fare i corsi, un po' per la questione Covid adesso, figurati, speriamo che migliori tutta la situazione. Poi, per carità, se avessi la possibilità di un giorno di poter frequentare un corso e di provarci almeno una volta, lo farei, ecco, perché no, almeno provarci, almeno dico ci ho provato, non sono passato, oppure sono passato e sono contento, e speriamo bene, dai. Comunque ci sentiamo sempre qua in radio, Marco, mi ha fatto piacere anche a me sentirti, anch'io adesso mi dedico a qualche altra cosettina, nel caso io molte volte la sera sono in ascolto, turni permettendo, oggi sono di riposo e domani rientro di mattina, lavoro, e ci sentiamo alle prossime, dai. Scappa Carlo. Sì, poi ho valutato anche l'aspetto economico, cioè se vuoi fare attività bene, amatoriale, devi avere impianti buoni, antenne buone, soprattutto cioè per spendere poco, non c'è. Poi qua è un condominio, è un macello, il terrazzo non è di proprietà mia, sai com'è, tante cose, è proprio di proprietà, non è condominio, è di proprietà di un condomino, e quindi là non fa, anche per la questione delle spese, cioè se vuoi un po' buona devi spendere, antenne buone, non volevo assolutamente, non volevo e non potevo affrontare un certo tipo di spese, dai, e anche problemi condominiali, quindi ho lasciato perdere. Bene Carlo, buona serata, buon tutto, e ci sentiamo quando capita. Ciao, cuore ti per me, Marco chiude. Ciao anche agli ascoltoni, ciao. Ciao Marco, alle prossime. Ciao Giovanni. l'antenna già la manto qua. Come a Roma? Boh, non va più. La domenica la butto giù. Vediamo un po' se è successo. Se no la volta appitto, la morte se la rampo. E mi compro un'altra antenna, tipo quella di Franco anche. Ecco, qui c'è quella come la mia che va bene. Cosa già? A me invece il vento mi ha piegato il palo, ma l'antenna per poco non mi cade. Beh, c'è una cosa che sta disturbando, boh. Che senso? Adesso si è messo in mezzo canale, sta disturbando. Cazzo, già come manisci uno, boh, per carità. Guarda se disturba adesso. Cosa già? Guarda se disturba adesso. Ma adesso non si sente, ma prima sì. Vabbè. Ho detto che mi si è piegato il tubo dell'antenna, per poco non mi scende giù. E che antenna? È l'antenna, c'è l'antenna anche sul tetto. Quella nuova? E allora? Adesso l'ho messo d'acqua, l'ho messo il tubo d'acqua. Quello l'hai cambiato? Ieri. Ah, e adesso è a posto? Sì, sì, adesso è a posto. E l'ho lasciato la base, l'ho lasciata quella che c'era e l'ho messo il tubo d'acqua. Perché sennò cazzo è... Perché ha preso il vento da dietro, capito? Dove non c'era il tirante. L'ha preso da dietro, sul maestrale. Vabbè, te sento avuto la mia rotta. No, la mia no... A quanto capito si è staccato il filo da... Da dove è stato il PL, mi? Da dentro. Guarda, ho il PL da su che si è staccato. L'ho visto nel furo che ha messo nel furo. Aiuto, help, eccetera, eccetera. Quello che ti posso dire è che può essere o il cavo del PL oppure quel filo che c'è all'interno dell'antenna. Sì, sì, infatti ho parlato anche con Fabrizio, ma l'ha confermato. Quanto c'è? 2 metri di stazione? Quasi 3. Comunque quella che c'è aperto l'antenna fa un bel pelle, è un'antenna che fugge bene. Però se la vedi più performante, te la prendi come la mia, spendi sulle 200. No, 150 euro pagato, adesso vuol dire. Però vabbè, a me mi ha fatto uno sconto, era 180 euro costato. Aspetta, già mi sono spostato un attimo, ripeti? Che da Fusaro costava 180, a me me l'ha lasciata 150. Ah, quell'antenna buona, sì. Va benissimo, va bene, benissimo. Sono arrivato a Capoluogo, cioè va bene. Dici che sia meglio della Mantova? Penso che più o meno lo stesso, solo che tiene 3.000 al banco questa qua, capito? Comunque continuano a dirmi che la Mantova è sempre la numero uno. C'è chi dice che la Gimbola è la numero uno, c'è chi dice che la Grazioli, insomma. È come i dottori, no? Quando ti indovinano la cura dicono che sono bravi, quando invece non te ne indovinano dicono che sono macellari. La stessa cosa le antenne, se vanno bene dicono che sono le migliori, se invece magari nella zona sua non va bene perché c'ha dei problemi con per dire montagna o roba del genere, dicono che non serve. Ognuno dice la sua, comunque detto da una persona brava, un tecnico là, che è la migliore, per lui è la migliore, ma anche secondo me. E adesso vediamo, domenica la butto giù, se ti vuoi fare un salto, dovrebbe venire Antonio Bombolo e forse Tino. Domenica, che lo fai? Già, se c'è cosa intorno alle 10. Io già lo sai che porto prima il cane giù e poi posso venire là. Tanto c'è una cucina lì perché deve venire gente a pranzo, ma c'è la cucina lì. Magazzino questo. E non c'è nulla da mettere lì. Non c'è nulla da mettere al posto di quella. No, mica resta con la boomerang da qua per metterla lì, ma anche no. È una cosa provvisoria, non c'è una provvisoria da mettere. No, ma non mi interessa già. Quella che mi interessi, Grazie a te, se non ti interessa. No, qualcosa provvisoria non mi interessa, aspetto. Capito. E magari cosa che si può fare subito? Tu li sbigi il PL e guarda se il PL è fatto bene. La prima cosa è quella. Dopo se non è il PL sicuramente quel capo che c'è, che è di massa, che praticamente si è staccato. La butto giù comunque, faccio una bella revisione. Sempre se si può fare, se no qui la taglio, perché c'ho la moletta già pronta. Io la moletta c'è il disco consumato, sarà per cambiarla, cazzo, non riesco a smollarla. Cosa vivo, va. Non molla, cazzo, non molla. E tu però mettigli un po' di VD40 se molla. Hai capito? tanto come la mia, c'ha tre cose dove ci mette la chiave, tre buchi. E poi devi girare, no? Sì. Ma so, come devi girare? Al contrario, vero? Sempre al contrario, certo. Provate il dolce a Chiravalla, vabbè, già lo farò di nuovo, mi devo comprare il disco nattaglio perché tanto la colana la uso solo per tagliare. E ho fatto le stecche per la gabbia degli uccelli, ho messo un manico in una paletta e l'ho tagliato il legno, l'ho tagliato con quella lì, capito? Faccio tutto con quella molla lì. Ma cos'è il problema mio? Il problema mio è dell'antenna, non so se riesco a mollare i radiali e in più non so se riesco a a levarla dal morso dall'antenna, no, perché tu arrugginita. VD40? Mi ha chiesto, ho sentito la casa, VD40. Sì, ma secondo me, allora la mantova c'ha quelle corte che si mettono per incrociare bene il tubo, quelle cuglie, come le vuoi chiamare. E praticamente quelli lì fanno poi di forza. Io quando l'ho smontata la mantova con Fabrizio per ripristinarla, poi vabbè, Fabrizio l'ha fatta tutta nuova, gli ha messo il campo di interno grosso per tenere più vate, eccetera eccetera, l'aveva fatto un bel lavoro, l'avevamo tutta lucidata bene, l'abbiamo portata al magazzino da lui e abbiamo fatto tutto la mia. Stavo parlando, guarda. Infatti, l'abbiamo rifatta a nuovo. E beh, Cri, il VD40 io lo uso per fare l'amore anche. Davvero? Ma funziona. E allora? Buonasera. Ciao Tino, buonasellaro. Buonasellaro, buona, dai che sto contento, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao, ciao Tino. Ciao Gianni. Ciao Tino. Ciao Cri, ciao a tutti, ciao ciao. Oh, bianco un attimo ragazzi, arrivo subito. Via. Ma adesso sei a casa di Maria? Via già. Già che sei allontanato. L'unica cosa che c'è è quello, è il PL che si è staccato con quel vento, sicuramente è quello, Più può essere più il PL. Tino, ripeto. Già, non posso, dai, sono in Corix che sto maneggiando qua, dai, sto facendo cosa qua. Devo condire, sennò mi fa tardi. Sempre ma niente. No, preparazione saccati. Ah, stai lavorando, ho capito, stai facendo il secondo lavoro. Andare, avanti, Cristian. Ma dobbiamo pagare le rate del camper, che... Vabbè, cosa ci c'è a pagare la telecamera, la voglia? Basta darla, a buon prezzo! Ho fatto un po' di guanciali e un po' di pancetta anche, che l'ho preso dall'amico che ha macellato, quindi. Ah, già va bene, dai! Andami, ciao! Lavoro! Ah, fatti! Aspetta un attimino, che c'è un piccolo pulmino che deve passare, il tram. Poi mi chiama dei piedi, Cristo. Allora sono in direzione casa, ci butto macchina, scarpe e tutto quello che ho addosso e metto in maschera da bagno a rilassarmi. E fai bene. Stavi lavorando? Ho finito alle 6 di lavorare e stamattina ho finito all'1:30. Va bene, invece le pagano forte. Perché c'è la gente che viene all'1:15 a scassare le giuggiole. Sai come funziona, puoi immaginare? Lo so, quante volte non li puoi mandare via, perché se li mandi via poi lo dico la principale guai, no, lui ha sempre l'interesse di vendere, no? Normale, l'interesse se tu te le fai tanto. E più di una volta è successo qui. Ce n'era una, non sai cosa faceva la signora. Prima si metteva a celamitare con la mica, poi allora quando mi vedeva chiudendo le serrate si veniva correndo. La signora ha detto, no signora, siamo chiusi. Come chiusi? E lei è stata mezz'ora lì parlando fuori, capo, e adesso sta venendo, noi dobbiamo andarcene via, siamo tutto il giorno qua. Non mi ha aperto. Infatti mia, attentate, il mio collega ha caricato la macchina e ci siamo andati. E ha fatto bene. L'unica soluzione da fare, purtroppo è così e così ce la teniamo, dai. Che interessante lavorare, se ti piglia bisù, sai. Purtroppo, il lavoro è lavoro, non lo so portare. Gappa. E dove, in che zona sta la moto? Prendanita. Prendanita, dai. Vicino da Colombano. Colombano. E va a Colombano che c'è a carica. Dove c'è la Yes? Ho capito. Lì vicino, dai. Ah, pensavo che fosse qualche duro che è conosciuto, dai. Ah, ho capito che sono andato anche a comprare roba. Ah, hai capito, dai, roba buona, un po' cara ma è buona, dai. Avevo comprato una lavatorelle, mi pare, qualche cosa del genere. Hai capito bene, dai, visto? Dai, ti sto bene, dai, per adesso ti sto bene. Se mi chiede, ci sto ancora meglio, dai. Vabbè, magari chiamate e ti mandato la mucuria. Adesso gli sto dando la foto, capisci? Vabbè, ma non è sempre che lavori, capito? Il problema è quello, invece li lavori tutto il mese, ti pagano a mesile, basta. Pure la pagava, vabbè. Vedi tu di valutare un po' le cose. E poi io gioco con il padre avanti. Faccio capire. Sono andato a comprare il palo l'altro giorno, la una cosa, come si chiama? Per un picchio, là. Ma non mi viene adesso. E la faccio. Come sono comprato il palo, ho chiesto il palo di... Perché l'acqua non si è piegata con me? Questo? A fine mese hai da lasciare, va bene, non ti hanno ancora pagato. Nulla. Bene, bene, non è un concentrato lungo. Lo sai? E chi no, non finisce così, no. Non si dà per le due salsicce. Devo fare quantità. Lo so, ragazzi, quello di casa, ma metto la gamba in scarico, che ho la gamba che mi fa un male, cane, per fare. Come mai mi fa male? Fatto sto? No, perché ho l'operatore al menisco, ho due viti nel menisco, capito? Al menisco? Il menisco è una spugna, cosa... come fai se ci rivi? Ho due viti, ho due ginocchio. Ma non è il menisco è una spugna, è una spugna che serve per ammortizzare quando tu salti, eccetera, è tipo una spugna fra l'ammortizzatore e tra uno e l'altro. Sì, avevo operato di crociato il menisco e avevo messo un paio di viti perché non mi hanno mai protetto il ginocchio e molto probabile fra qualche anno operare per la protesi, non sono consapevole. Ah, ecco. No, perché l'operazione al menisco l'ho avuta anche io, ma io ce l'avevo spappolato il menisco, me l'hanno scavato, hanno preso martello e scalpello e mi hanno bucato l'osso per farmi uscire il liquido, io ho visto tutto perché mi hanno fatto la parziale, mi hanno fatto quella, come si chiama, quella alla schiena, là. Non mi viene il nome adesso, quella alla schiena. Abbiamo fatto l'iniezione e quindi mi prendeva solo dal bacino sino alle gambe. Artroscopia. No, allora me l'ha fatta a punta. Ah, okay. Chi è che è entrato? Buonasera Carlo, ti hanno fatto l'anestesia in artroscopia dal bacino in giù. Sì, esatto. Ma mi